invece da profondo, sono voci del cuore, sono voci d'amore, è un amore che si rinnova come le stagioni, dopo ce n'è sempre una nuova. Fiori di pesco in primavera, dove prima il frutto non c'era, è cresciuto piano piano, senza andare troppo lontano, perché tu eri qui, vicino a me, vicino a me. Due anime nel sole, in nome dell'amore, due anime nel sole, in nome dell'amore, due persone siamo noi che ascoltano come voi le voci. Che ti cambiano l'umore, puoi sentire il suo calore, non c'è bisogno di parlare, per poter volare devi solo ascoltare questa voce che cresce da dentro e poi esce, è un battito continuo che c'è dentro di te. Sole, in nome dell'amore, due persone siamo noi che ascoltano come voi le voci. Questa voce che cresce e scoprire ciò che c'è dentro di te, dentro di me, camminare sempre insieme, non importa dove andiamo, importante che lo sappiamo. Sei la tua voce, anche la mia, due anime siamo noi, due anime nel sole, il nome dell'amore, due anime. anime nel sole in nome dell'amore. Due persone siamo noi che ascoltano come voi le voci. Amen.